sente, sì? Beh, anch'io saluto tutti e penso che venire al centro di documentazione a parlare di Bruno come se fosse uno sconosciuto sia difficile, perché il centro ha cominciato a parlare di Bruno nel 1971, quindi sono 50 anni fa, 51, e poi ha dedicato molta attenzione a Bruno. Addirittura la morte di Bruno, è uscito un librino per Bruno Borghi, mi pare si intitolasse. Quindi non dirò le cose che forse direi in un'altra parte, dove Bruno è meno conosciuto. Poi in generale la presentazione dei libri serve a far venire la voglia a chi ascolta di leggerlo. In questo caso invece la presentazione, come avete sentito dagli interventi precedenti, la presentazione è servita a porre domande, domande difficili, anche domande importanti. Perciò la cosa migliore forse non è parlarvi del contenuto dei libri, ma provare a rispondere alle domande di Mauro, di Giovanni e di Alessandro. È stato detto, non è una biografia, ma soprattutto non è una biografia di un prete, perché mi scuserete, io qualche volta ho letto le biografie dei preti, sono una palla spaventosa, difficilmente ci si arriva fino alla fine. E non è una biografia perché mi mancava, è stato detto anche da Alessandro, mi mancava il materiale per costruirne una decente di Bruno. E Bruno, d'altra parte, ha fatto tantissime cose perché il fare era la sua vocazione. E in tutto quello che ha fatto ha lasciato un segno di una coerenza inconfondibile. Perché qualunque cosa facesse o dicesse, ecco, si potevano facilmente intravedere i tratti del suo impegno, e la coerenza estrema tra le azioni, il modo di vivere, lo ha fatto scambiare qualche volta, mi ha fatto scambiare per durezza o per intransigenza. Io mi ricordo negli ultimi tempi ci restavo male quando qualcuno, insomma, si sentiva, come dire, con quello che dicevi te, qualche volta, insomma, violentato un po' dalla decisione di Bruno. Ecco, chi ha conosciuto Bruno, lo ha già detto Alessandro, chi lo ha conosciuto fino in fondo sa che nei rapporti con gli altri Bruno aveva una gentilezza d'animo, una dolcezza anche incredibile. Ecco, e credo, per esempio, io ho parlato con qualcuno che ha lavorato con Bruno e lo ricordano così i compagni di lavoro di Bruno, cioè che avevano un rapporto proprio materiale, no? di lavoro, di fatica, di stanchezza. E lo hanno conosciuto fin dai primi anni in cui ebbe dal cardinale il permesso di entrare alla Pignone. Mi ricordo che Bruno mi raccontava che quando entrò, insomma, c'era un pochino di scetticismo. Cosa ci viene a fare un prete? Si diceva nella commissione interna. Cosa viene a fare in fabbrica? Ecco, Bruno, che allora era molto giovane, ma appena sentì questa perplessità, chiese di parlare alla commissione interna e alla fine di un colloquio che dal racconto di Bruno sembrava lungo, ecco, non c'erano più dubbi, il rapporto con gli altri operai si fece da allora strettissimo, intenso, e non erano state necessarie molte parole per far capire ai compagni che non entrava in chiacchiere in fabbrica per far chiacchiere o per convertirli, ma per condividere del tutto la loro vita, per battersi con loro contro i padroni. Ecco, dietro questa posizione del Borghi, che è una posizione assunta da giovanissimo. Ecco, c'erano vicende che esprimevano quanto veniva elaborando il cattolicesimo fiorentino, è stato già detto, negli anni 50 e 60. Erano gli anni, appunto, lo diceva Mauro, di Lavira, di Padre Balducci, di Nicola Pistelli, di tanti altri cattolici che non ho il tempo di ricordare, impegnati a costruire una proposta politica progressista. E quando era sotto la guida di Lapira a Firenze, era considerata la città del dialogo, è stato ricordato anche non molte settimane fa, e sono stati anni nei quali il dialogo si intrecciava con scontri e incontri. Per esempio, il Borghi non dialogava molto, non seguiva Lapira molto su questo terreno, e gli incontri, gli scontri riflettevano bene il clima vivo, ma anche polemico. Io me lo ricordo, insomma, ero un po' meravigliato della polemica fiorentina. Arrivavo dalla Sardegna, dove tutti dormono, non fanno polemica, e insomma, mi pareva strano, ecco, che ci fosse questa tensione civile. Ecco, dentro questo contesto però il Borghi, ecco qua riprendo una cosa che diceva Alessandro accennandola appena, dentro questo contesto fiorentino di quegli anni, il Borghi però quasi istintivamente si era ritagliato uno spazio originale, proprio sullo sfondo delle lotte che caratterizzavano le grandi fabbriche fiorentine. Il Borghi raramente si trovava d'accordo con Lapira, poi certo quando Lapira è morto avercene, ma allora mi ricordo che non c'era una totale sintonia tra il Borghi e Lapira. E la questione operaia allora non era ai margini della vita cittadina come ora, era il fulcro di un confronto che coinvolgeva anche chi non era operaio in quegli anni. E la ragione di questa partecipazione della vita cittadina alla vita operaia di Firenze era che negli anni 50, ma ancora negli anni 60 e forse fino agli anni 70, la fabbrica non era solo il luogo delle rivendicazioni salariali, era il luogo soprattutto dove si agitavano i grandi temi sociali, quelli della partecipazione democratica. Certo, poi c'erano anche le mobilitazioni contro i licenziamenti di massa, c'erano le vertenze sul salario che venivano sollevate in tutte le grandi fabbriche italiane, ma a Firenze questi obiettivi, chiamiamoli operai, venivano perseguiti con un occhio alla politica, alla dimensione sociale. Pensate al tema della pace, no? Di allora, come torna oggi, di terribile attualità. Erano gli anni in cui tra comunisti e la sinistra democristiana si facevano prove di dialogo. Ricordate, si chiamò Dialogo alla prova, un libro pubblicato da Vallecchi in quegli anni, dove i primi tentativi di dialogo trovavano l'appoggio delle forze cattoliche progressiste. Ecco, che cosa fosse questa spinta di Bruno, che Bruno sentiva, a lasciarsi coinvolgere dalla lotta operaia? Ecco, si capisce bene subito da quel lungo sciopero che è stato la vicenda della Galileo nel 58. E è una cosa che non voglio ripetere, la trovate nel libro, ma lasciatemi dire che Bruno si ritrova a fianco degli operai della fabbrica e ci si ritrova come prete. Cioè, la lettera per la quale verrà incriminato insieme a 152 compagni è una lettera che scrive come prete, si firma sacerdote Bruno Borghi. Ed è appunto in questa veste, proprio perché Bruno assume, continua ad assumere la veste di prete, che la città si divide in occasione dello sciopero. Le foto del Borghi che compaiono sui giornali in quei giorni hanno una carica simbolica fortissima per non provocare divisioni. E infatti la città si divide anche sul Borghi, oltre che sugli scioperi, sull'occupazione, eccetera. E naturalmente gli operai, i giornali riflettono gli schieramenti in campo. Ecco, il caso Galileo è stata una vera e propria occasione di una campagna di stampa da parte dei giornali della Confindustria, della borghesia, alla quale non pareva vero di poter attaccare tutto d'un colpo Borghi, Leacli, La Pira, Fanfani, in un colpo solo. Anche in seguito poi Borghi è sempre rimasto fedele a questo orizzonte politico ed evangelico che era la fabbrica per lui. Ecco, lavorare ancora in fabbrica restava il suo desiderio. Quando si presentò l'occasione di entrare alla Gover, la colse subito. Appena assunto, anche qui non voglio raccontare le pagine del libro, ma appena assunto cominciò un'intensa attività sindacale. Nel giro, pensate, di 2 mesi e mezzo, Lugolini prese e lo mise alla porta, senza preavviso, con un licenziamento in tronco. E naturalmente successe un putiferio, oggi non succederebbe questo, sono convinto di questo, ma allora successe un putiferio, dallo sciopero degli operai alla durissima presa di posizione della stampa padronale, La Nazione di Mattei in testa, e il seguito della vicenda durò qualche tempo, una causa di lavoro, la sentenza del giudice che annullava il licenziamento, il ritorno in fabbrica. Passarono oltre 2 anni dal giorno di licenziamento. Quando Bruno ritornò alla Gover, però, il clima all'interno della fabbrica non era più lo stesso e soprattutto erano fortissime le riserve dei sindacalisti più moderati, e stranamente erano quelli della CGIL. Il Borghi dice: quello della CISL mi pareva meglio, dice in una sua lettera. E gli rimproveravano i sindacalisti della CGIL e quelli della Commissione Interna un rigore eccessivo, una coerenza incapace di compromessi, una fedeltà irriducibile alle parole d'ordine della lotta operaia. Al Borghi sono rimasti vicino in quegli anni, io me li ricordo ancora i cognomi di questi operai, sono rimasti vicino i compagni più radicali, quelli capaci di organizzare un'azione di largo respiro. E del resto il Borghi era animato dalla decisione, dall'intenzione di andare avanti anche da solo, e il dissenso del sindacato certo indeboliva la lotta, ma il Borghi non si fermava, non tornava indietro, arrivò perfino a teorizzare la possibilità di leggere il giornale mentre nelle pause tra un'operazione e l'altra di lavoro, e suscitando naturalmente la durissima reazione del padrone. Ecco, pochi mesi dopo da questa vicenda della lettura del giornale nelle pause, si conclude l'esperienza di fabbrica di Bruno, che dà le dimissioni perché la mamma è malata e ha bisogno di assisterla. È il 1976, pensate al periodo, e il Borghi non torna più da allora in fabbrica. Però la fabbrica, le lotte operaie rimasero sempre al centro della sua visione dell'impegno, ecco, del Borghi, perché i decenni successivi lo vedono, come sempre, anche prima, impegnato su più fronti: il lavoro di contadino quando torna a Torri, la rivoluzione in Nicaragua, il volontariato di assistenza ai carcerati, che è durato tra l'altro fino alla morte, o quasi. Ecco, nella sua ansia di un mondo nuovo, il Nicaragua ha rappresentato una parte importante. Io nel libro gli dedico un capitolo che mi pare uno dei capitoli centrali, di cui mi dispiace sempre non poter parlare per ragioni di tempo, ma un giorno verrò a parlare solo del Nicaragua, non so dove, ma insomma, perché il Nicaragua, Ecco, c'è qualcosa di religioso e nello stesso tempo di profondamente laico nel modo con cui Bruno guardava la rivoluzione in Nicaragua, perché lì si faceva concreta la speranza della liberazione di un popolo intero. E Bruno ha sempre creduto che l'impegno più alto per un uomo fosse quello di lottare per liberare gli altri uomini dall'oppressione. Ecco, però voglio ancora fare un cenno, poi cerco di non farla lunga, alle vicende del Borghi dentro la Chiesa. Impegnato come è sempre stato a vivere il Vangelo in modo integrale, e io non ho la capacità e nemmeno gli strumenti per dire cose profonde su questo tema, però ecco, posso dire, per averlo letto in qualche documento anche, che intorno alla decisione di abbandonare Quintole si incrociano molte domande fondamentali nella vita di Bruno. Qual è, dopo l'allontanamento, il rapporto di Bruno con la Chiesa? Quali sono i suoi legami con la fede? Ogni tanto nelle presentazioni del libro me le sento fare queste domande. Qual è il percorso interiore di Bruno dopo la sua scelta di formarsi una famiglia, per esempio? Insomma, domande difficili alle quali il libro risponde come può, cioè sostanzialmente non risponde. Ma nel libro troverete il trascritto, il brano di una mia conversazione con Don Fabio Masi, che ora fa il parroco a Paterno da tanto tempo, e che ha dato la sua interpretazione della vita di Bruno dentro la Chiesa. Ed è, devo dire, un'interpretazione che io trovo acuta e anche convincente in parte. Però comunque la si pensi a questo proposito. Ecco, io credo che le scelte del Borghi, sempre aderenti allo spirito del Vangelo, diano spazio, diano la possibilità di porsi altre domande fondamentali. Cosa vuol dire stare dentro la Chiesa? Cosa vuol dire per gli uomini d'oggi essere prete, per esempio? Quale spazio rimane nel mondo d'oggi per la gerarchia della Chiesa? Di ogni Chiesa, voglio aggiungere. Ecco, io penso che le vicende del Borghi abbiano dato il via ad una riflessione profonda dentro e fuori dalla Chiesa. C'è questo lascito che non emerge molto dal libro, forse, ma che mi sarebbe piaciuto approfondire. Ecco, penso cioè che le vicende di Bruno abbiano contribuito ad iniziare un percorso di liberazione, non soltanto dei preti, ma di tutta la comunità che sente di appartenere al Vangelo. E guardate, i segni di oggi intorno a noi sono tanti, per chi vuole vederli naturalmente. Uno di quelli più vicino a noi, per esempio, è la comunità delle Piagge a Firenze, e lo stesso Alessandro. Ecco, per me è impossibile non vedere le analogie con lo spirito che animava il Borghi. Per esempio, se io vado alle Piagge ogni tanto, un prete senza parrocchia, pensate, uno che ha dubbi e non certezze da offrire, come quasi tutti i preti, una comunità non benedetta dalla Chiesa, che forse sta sulle scatole alla Chiesa, ma che ogni giorno percorre un pezzo di strada sulla via della liberazione degli uomini, e specialmente degli uomini più deboli. Ecco, tutte queste domande, insomma, a cui il libro non fa tempo a rispondere, o forse non può nemmeno rispondere. Però queste domande ormai sono in campo e credo che forse qualcuno scriverà un altro libro sul Borghi e darà risposte, ma insomma. Ma c'è un altro aspetto, e poi chiudo davvero, nella vicenda religiosa di Bruno, che mi pare importante e che non ho sviluppato nel libro. Perché fin dai primi anni della sua ordinazione, Bruno ha ispirato la sua azione di prete a una laicità rigorosa. Una volta in una presentazione ne ha parlato Alessandro, e Bruno non distingueva le persone a seconda che fossero religiosi o non cattolici o atei, praticanti, figuriamoci, o non praticanti. Ecco, solo gli uomini gli interessavano, chiunque fossero, e di qui l'insofferenza per ogni congrega, per ogni esclusione, per ogni fanatismo. Appena sospettò che un gruppetto di noi si qualificasse, insomma, fosse attirato dal borghismo, ecco, sparì e non si fece più vedere per mesi, poi tornò. Ecco, una delle cose che mi colpirono subito appena lo conobbi fu questa tolleranza per ogni opinione, per chi non era d'accordo con lui, cioè l'apertura verso gli altri, che poi è il nocciolo della laicità. Ecco, Bruno ci ha mostrato come un prete si comporta alla luce della Costituzione laica in un paese infestato dai cattolici come l'Italia, no? Questa capacità di tenere la barra dritta da uomo di chiesa. E già quando io l'ho conosciuto, siamo a metà degli anni 60, Bruno mi è sembrato subito come il più laico tra i preti che io conoscessi, combattuto fortemente da una chiesa clericale, incapace cioè di capire il bisogno di laicità dell'uomo moderno. Ecco, proprio questo taglio laico, insieme alla capacità di dedicarsi ai bisogni apparentemente materiali, no, degli uomini, dei più disgraziati, questa decisione di lottare con i più sfortunati per liberarli dall'oppressione, dallo sfruttamento, hanno reso Bruno molto, molto diverso dagli altri preti della sua generazione. Ecco, Bruno non è mai stato, l'ho detto già un'altra volta, quello che si chiama pastore d'anime, perché pensava che l'anima degli uomini la si ritrova solo se gli uomini li si libera dalla tortura, dalla fame, dall'oppressione, dal bisogno. Ecco, questa scelta laica, tutta centrata sugli uomini, a prescindere dalla fede religiosa, è chiaro che non poteva essere accettata da una chiesa legata ancora alla sua visione tridentina, come era quella di quegli anni e come credo purtroppo che per tanta parte sia ancora. E allora la rottura con la gerarchia ecclesiastica fu inevitabile, non fu nemmeno fragorosa, aveva la logica delle cose inevitabili. Ma non solo perché a quei tempi il vescovo di Firenze era particolarmente chiuso o conservatore, non è questa la ragione, ma perché l'interpretazione che il Borghi dava dei compiti della Chiesa è ancora inconciliabile con quella di qualsiasi gerarchia ecclesiastica. Ecco, voi troverete la lettera nel libro all'Arcivescovo di Firenze quando dà le dimissioni, e nella giustificazione delle sue dimissioni c'è una frase brevissima ma che è fondamentale. La mia convinzione personale è che l'attuale condizione di parroco è in contrasto con la mia decisione di essere operaio. Vedete, qui torna il tema di nuovo della visione completamente laica di Bruno. In chiesa e fuori il Borghi ha usato sempre le stesse parole che ha usato in fabbrica, che userà poi anche quando andrà in Nicaragua, che trascriverà nei suoi appunti nei quaderni neri. E anche quando nell'ultima parte della vita si rivolgeva ai carcerati, i temi centrali del discorso del Borghi, qui ha ragione Alessandro, rimanevano gli stessi, quale che fosse la situazione in cui si trovava. Certo, in carcere tutto è più difficile perché non vigono le stesse regole che valgono fuori in carcere per le persone cosiddette libere. Bruno sapeva qual era la condizione di debolezza dei carcerati, che sono oggetto di ritorsioni, di minacce, qualche volta di ricatti, ma non ha mai rinunziato a dire loro che l'unica strada per liberarsi davvero era la rivendicazione della loro dignità. Ecco, siccome avete capito che Bruno non faceva prediche, gli bastava affermare, lo dice in una lettera molto bella pubblicata dal Manifesto alla direttrice del carcere, gli bastava affermare che il corpo del detenuto è sacro e che uno Stato che usa violenza verso coloro che sono ristretti in carcere non è uno Stato civile. E guardate che questa è la ragione per cui Bruno si è procurato una stima e una autorevolezza presso i carcerati che di solito non si accorda ai volontari in carcere. E chiudo dicendo solo questa cosa, che c'è un aspetto della personalità di Bruno che a me pare importantissimo e che è alla base un po' di tante questioni che sono state poste da Giovanni, da Alessandro e da Mauro. E la vita di Bruno è stata un succedersi continuo di cambiamenti. Ecco, se non si coglie questo aspetto, questo sì, mi pare di averlo sottolineato nel libro. Un cambiamento continuo, dalla parrocchia dei primi anni alla fabbrica, poi a Quintole, poi da Quintole alla Gover, dalla Gover ai campi di Torri, dall'abbandono della parrocchia fino a formarsi una famiglia. E per tante volte tutto è cambiato di colpo per Bruno. Bruno non ha mai esitato, anche quando ha dovuto lasciare un mondo al quale era straordinariamente legato, cioè la fabbrica e gli operai, le lotte operaie. Era convinto che il cambiamento è ciò che dà il senso alla vita. La vita, cambiare vita come rinascita, come conversione. Ecco, ricordo a Quintole prediche di 5 minuti, non di più, ma l'insistenza del suo richiamo alla novità, la novitas del Vangelo. Ecco, sperare nell'uomo nuovo, costruire uomini nuovi. Era questo per lui il senso più profondo della vita. Ho accennato a queste poche cose, non perché si dia un'idea completa di cosa è stato Bruno, neanche per sogno. Il resto, alcune altre cose, le trovate nel libro Basta un uomo, e credo appunto che basti un uomo così per rimettere in discussione la vita di ciascuno di noi. Thank you.